Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ancora ben trovati nel mondo della scuola, Mirko Cavallini in studio, Eddie Daici in regia, con un tema che è stato lanciato qualche settimana fa, all'inizio di febbraio, dai vescovi del Triveneto in occasione della giornata per la vita, ed è un tema legato all'educazione. Perché questo legame e cosa c'era in questo messaggio che magari abbiamo visto transitare ma sul quale non ci siamo soffermati, ci aiuta in questo Don Edmondo Lanciarotta. Ben trovato. Ben trovati a tutti e grazie dell'accoglienza. Dunque, la giornata per la vita, e i vescovi del Veneto scrivono un messaggio sull'educazione. A me era sembrata un po' una contraddizione, poi leggendo una, cioè nel senso che non sembrava che c'entrasse direttamente, magari si poteva soffermare così sui temi della bioetica, della salvaguardia, della vita nascente, della vita morente. Invece i nostri vescovi parlano dell'educazione. Sì, siamo sempre all'interno del decennio particolare degli orientamenti pastorali dove c'è l'emergenza educativa, e i nostri vescovi di Veneto hanno individuato, di fronte ad alcuni fenomeni particolari sempre più presenti anche nel nostro territorio, legati alla concezione della vita, all'indicazione dei generi maschile e femminile, al tipo così di coppie e situazioni particolari, fenomeni che sempre di più sono presenti, ripeto, nel nostro ambiente, hanno ritenuto importante evidenziare questa situazione con un messaggio, meglio con una nota, dal titolo "Il compito educativo è una missione grave", recuperando chiave sì. Anche grave, nel senso che è importante. Grave, sì. Per quanto è il documento del Concilio Vaticano II, la gravissima educazione. E poi appunto chiave, perché è l'espressione di Papa Francesco che appunto usa questa espressione. E allora i nostri vescovi, ripeto, di fronte a questa situazione, senza trascurare gli aspetti per la difesa e la promozione della vita, che sono appunto importanti, hanno ritenuto opportuno fermarsi di fronte a quella che loro chiamano la ideologia del gender, che sono sempre di più presenti anche nell'ambito scolastico. È un mondo, insomma, su cui si è discusso, e tra l'altro a Venezia c'è stata una discussione per la diffusione all'interno delle scuole gestite dal comune, le scuole statali, di alcuni libri di testo così su cui anche il patriarcato è intervenuto. Appunto, perché su questo c'è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che dipende dal Dipartimento delle Pari Opportunità, appunto ha emanato alcuni opuscoli dal titolo "Educare alla diversità a scuola", e per questo purtroppo è capitato sotto leggi da presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato diffuso anche nelle scuole. È stata una campagna preparata coinvolgendo anche il cosiddetto forum delle lesbiche, dei gay, dei bisessuali, dei transessuali, e però senza aver coinvolto il forum delle famiglie. E anche su questo aspetto qui è stato anche così contestato, perché come mai su questo argomento molto delicato si interpella una parte della società e non si interpellano le famiglie? E questi opuscoli propongono un orientamento al posto dell'identità, e questa è la questione, un orientamento cosiddetto sessuale al posto della identità sessuale maschile e femminile. Poi ci sono anche dei pregiudizi nei confronti anche della religione. Allora, in particolare a Venezia, subito alcuni insegnanti hanno accolto questi opuscoli, li hanno distribuiti nelle scuole, nelle classi, suscitando anche sconcerto da parte dei genitori e degli alunni. Da qui poi anche il suggerimento di un intervento anche esplicito da parte dei nostri vescovi. Poi c'è stato anche così, dal punto di vista anche della società, sempre di più in questi ultimi decenni, le cosiddette teorie del gender, no? Che toccano questioni sia riguardanti il movimento femminista, sia posizioni riguardanti la concezione stessa, ecco, del sesso, e questo crea problema. Allora, ripeto, la nota cerca di affrontare questa questione individuando due aspetti: un aspetto di carattere antropologico e un aspetto di carattere educativo. E quindi, di fronte a questa crisi, ecco, siamo invitati ad affrontarla cercando un chiarimento di carattere antropologico, cioè qual è la visione di uomo che si presenta, che si propone, e qual è appunto l'altro aspetto educativo, come questo può essere anche un argomento, una realtà che ha a che fare anche con l'educazione. Ecco, io non ho fatto le scuole ai tempi del Libro Cuore nel 1800, ma alla fine degli anni 70 del secolo scorso, e nella mia classe, nella mia scuola, ma mi pare anche in altre, i maschi avevano il grembiule azzurro e le femmine avevano il grembiule bianco. A me questa cosa mi ha aiutato. Adesso sono tutti uguali, sono tutti bianchi o tutti neri. E c'è questo rischio in cui non si capisce bene cosa vuol dire identità sessuale, cosa vuol dire identità di genere, e poi i cosiddetti stereotipi di maschio e femminile, maschio e femmina, come appunto anche nella scuola, il grembiule azzurro, il grembiule rosa, e cosa vuol dire orientamento sessuale. Allora sembrerebbe appunto che di fronte alle diversità, per non aggiungere alle discriminazioni, si elimini un dato fondamentale che noi riteniamo essere fondamentale, appunto la diversità. Il problema sta tutto qui, e cioè come non si deve e non si può assolutamente discriminare le persone mantenendo la diversità. Qui il rischio di questa ideologia del gender è che appunto si voglia eliminare qualunque tipo di differenza, e sotto questo aspetto qui allora l'identità sessuale fa riferimento alla connotazione biologica del corpo, quindi il sesso. Ma c'è invece anche la identità di genere. E che cos'è identità di genere? È ciò che ciascuna persona, ciascun individuo, percepisce se stesso come maschio o come femmina. E poi ci sono gli stereotipi, nel senso che il maschio non deve lavare i panni, per esempio, che la femmina invece deve giocare con le bambole, ecco, il maschio con i carri armati, ecco, sono degli stereotipi. Ma quello che invece fa problema è l'orientamento sessuale, e cioè qui l'orientamento sessuale salta di pari passo il dato corporeo e diventa un dato puramente culturale. In altre parole, si propone che ognuno è libero di scegliere il proprio orientamento sessuale. Ecco la ideologia cosiddetta del gender. Contro la quale appunto i nostri vescovi hanno scritto questa nota, sulla quale torniamo tra poco dopo la prima pausa. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Come piace a me. delle frasi dette piano, che ne pensi del perdono, che ne pensi del bisogno di ciascun essere umano di provare un po' d'amore. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, Mirko Cavallini in studio con Don Edmondo Lanciarotta. Stiamo riprendendo alcuni contenuti della nota dei Vescovi del Triveneto su alcune urgenti questioni di carattere antropologico ed educativo. In questo contesto appunto inseriamo questa nota che era stata diramata in occasione della giornata per la vita. Riconoscere la ricchezza insostituibile della differenza, specialmente quella fondamentale tra maschile e femminile. Anche la Bibbia inizia così: Dio creò l'umanità nella distinzione tra maschio e femmina. Ed è questo l'annuncio di bellezza, no? Che il Vangelo, la detta notizia, che la comunità cristiana è invitata ad affermare e ad annunciare anche di fronte a queste provocazioni della cosiddetta ideologia del gender, che vuol dire genere, però che è difficile anche da tradurre perché veicola diversi anche significati. In sintesi possiamo dire che appunto l'identità sessuale maschile e femminile non ha più a che fare con un dato sessuale del corpo, si diceva, ma è ridotta a una scelta dell'individuo, cioè uno sceglie liberamente quale genere avere. Pensi che dati degli studi in questi ultimi mesi, ecco, in America siamo riusciti a individuare perfino 50 generi. Noi conoscevamo due, maschile e femminile, qui ne abbiamo 50. Già tre mi fanno problema, ecco, figuriamoci. Già 50 da uno che cambia. Quindi su questo aspetto qui, il ritornare, il rilanciare che l'umanità è composta maschile e femminile e che la conoscenza della propria identità avviene attraverso l'incontro con l'alterità, con l'altro, ecco, questo è fondamentale. Allora, ecco, nella nota, ecco, i nostri vescovi invitano appunto a riproporre, a rilanciare una visione di uomo che si educa a partire da questa visione, quindi un uomo caratterizzato dalla dignità e dal valore della persona in quanto tale, che è rispettato anche nella sua fragilità, che la differenza costitutiva, possiamo dire anche ontologica, ecco, è una ricchezza insostituibile, e che occorre anche, ecco, conoscere sempre più cosa vuol dire il maschile e il femminile, ma non come dati a sé, ma in relazione, per poter poi costituire una relazione feconda appunto tra maschile e femminile. Purtroppo, ripeto, il contesto attuale dentro il quale si inserisce questa ideologia del gender, ecco, porta anche aspetti problematici, perché la lotta per esempio contro l'omofobia di questi giorni, che va sempre di più di voga e crea una confusione su questo aspetto, perché sembrerebbe che solamente coloro che lottano contro l'omofobia sono le persone doc, e sotto questo aspetto qui è fuorviante, perché crea anche confusione ecco, anche nell'ambito scolastico, anche sotto questo aspetto qui, ecco, abbiamo assistito anche tanti ragazzi, tanti giovani, eccetera, che, ecco, fanno una grande confusione nella conoscenza anche della propria identità. E per moda sembrerebbe, ecco, che il diverso dovrebbe essere il normale. Quindi qui qua c'è un capovolgimento, ecco, problematico, che fa anche discutere. Altro aspetto su cui i vescovi hanno invitato è non avere paura a utilizzare anche nel contesto pubblico parole normali: padre, madre, marito, moglie, famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Qui anche nelle nostre comunità cristiane la provocazione è forte, perché sappiamo che le separazioni, le convivenze sono tante, sono sempre di più le situazioni anche di precarietà. Anche persone che frequentano l'ambiente parrocchiale magari danno per scontato che si possa convivere prima del matrimonio, e quindi questo interroga la comunità cristiana. È vero che la Chiesa dice questo è il modello a cui dobbiamo ispirarci, ma la realtà va da un'altra parte, e allora come interviene la pastorale? Qui è molto delicato il discorso, perché dobbiamo tenere da una parte la chiarezza circa i contenuti, quindi il rifiuto di ogni forma di ideologie. Ecco. Dall'altra parte noi siamo invitati ad accogliere le persone quanto tali. Quindi questo duplice o contemporaneo atteggiamento della accoglienza di ogni persona in qualunque situazione essa si trovi, e contemporaneamente anche la chiarezza sull'annuncio del Vangelo, ecco, e il rifiuto di forme che possono essere discriminanti, ecco, occorre una rielaborazione culturale, occorre anche un approccio educativo, occorre anche un approccio, ecco, relazionale, che non sempre questo accade anche nelle nostre comunità cristiane. E su questo aspetto qui allora è importante anche, mentre noi, diciamo, facciamo una battaglia contro l'ideologia, dobbiamo contemporaneamente anche creare le condizioni perché le persone che accostano la scuola o le persone che accostano la comunità cristiana si sentano accolte. E com'è possibile questo? Allora, se noi vediamo questo aspetto anche dal punto di vista normativo, giuridico, possiamo dire sinteticamente che la battaglia è persa. Perché in Italia siamo quasi gli ultimi ancora per esempio al matrimonio omosessuale, ecco, ma nella comunità europea la cosa si sta estendendo in maniera evidente. Allora, in termini prospettici, possiamo dire che prima o dopo questo capiterà anche in Italia, ecco. E allora possiamo dire che una battaglia è già persa. Dal punto di vista educativo possiamo vedere anche che ci sono dei segni preoccupanti anche all'interno degli orientamenti, per esempio quello che accadono anche nelle scuole. E quindi anche su questo aspetto qui possiamo dire che la cosa diventa molto preoccupante. Allora, dov'è che noi siamo invitati a operare? Ecco, ritengo che operare fondamentale è le comunità cristiane, le persone, le famiglie che vivono il proprio stato in nome del Vangelo, dovrebbero essere capaci di manifestare la bellezza della propria condizione. Dovrebbero essere capaci di manifestare che è bello essere maschili e femminili, che è bello mettersi in relazione e che questo è fondamentale per la propria costituzione e la propria esperienza di vita. Di più ancora, mi sento di poter dire che qualunque situazione, anche la più sgangherata, qualunque situazione di una persona che si trova in una situazione di genere non ben chiaro, dovrebbe trovare accoglienza nelle nostre comunità cristiane e non rifiuto per la sua situazione, anche dal punto di vista ideologico. La situazione della persona va accolta, da lì la possibilità di un dialogo e di un percorso anche educativo, di un cammino anche di riscoperta. Sulla testimonianza abbiamo visto l'incontro dei fidanzati con il Papa, e il Papa che ha convocato poi per il prossimo autunno un sinodo dei vescovi sulla famiglia, quindi un tema che gli sta a cuore. Ultima pausa e poi ancora insieme. Dal mondo della scuola. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, a partire dalla nota dei vescovi del Triveneto sulle questioni di carattere antropologico ed educativo. I vescovi sono soffermati sulle teorie gender, il genere, il maschile e il femminile, lo hanno fatto in occasione della recente giornata per la vita. Don Edmondo Lanciarotto è parroco e anche insegnante, ha a che fare con adolescenti, giovani fino ai 19 anni, in questa fascia d'età in cui magari già alcune decisioni importanti si prendono su vari aspetti della vita, percepisci alcuni segnali su questo dibattito? Cosa viene fuori? Ebbene, con Facebook e con tutta la comunicazione telematica i ragazzi sono esposti a questo vento molto pericoloso. Loro hanno bisogno di modelli significativi, hanno bisogno di persone, ecco, che siano capaci di essere testimoni. Ecco, e quindi su questo aspetto qui sono esposti alle mode, e le mode sono molto pericolose, e quindi su questo aspetto qui un invito ulteriore a un impegno educativo, a una pazienza educativa, a una capacità di mettersi con questi ragazzi, accogliere anche le loro sbavature, le loro irrequietezze, le loro anche provocazioni, e ripeto, come dicevo prima, a saper mettersi in relazione in maniera tale che queste persone, questi ragazzi, ecco non percepiscano in maniera superficiale, ecco, la situazione, la subiscono, ecco, ma siano capaci anche di mettersi in dialogo, ecco, e quindi maturare loro anche la capacità critica. Certo che siamo molto impari di fronte alle comunicazioni della stampa, ecco, e qua occorre una capacità, ripeto, educativa e una capacità di mettersi in ascolto di questa realtà. La metto nella prospettiva del sale e del lievito, che è sempre poco rispetto alla pasta. Cerchiamo di... Però l'importante è che il sale sia sale, che abbia quel gusto. Ecco, e non troppo, troppo, perché altrimenti diventa anche... si butta via tutto l'impasto. Sì. Inseriamo questo contesto, Don Edmondo, e anche questo tuo intervento nel viaggio che già facciamo in altro ambito, verso il 10 di maggio, la scuola che incontrerà Papa Francesco, appuntamento appunto anche da lui credo desiderato. Sì, infatti, ecco, percepiamo che questo appuntamento della Chiesa per la scuola e la scuola che incontra Papa Francesco è anche da lui desiderato, perché noi, ecco, ci aspettiamo che intervenga e ci comunichi anche la sua passione per la scuola, che vive anche questi momenti, questi drammi personali. Ecco, qualcuno anche si preoccupa come mai tutte queste cose accadono nella scuola, e non possiamo dire che la scuola non è più un chiostro protetto, non è più un parcheggio custodito, ma è uno specchio della realtà, e quindi la comunità cristiana ha la possibilità, nell'accostare la scuola, di accostare l'uomo, e l'uomo con tutte le sue fragilità, anche con tutte le sue potenzialità, e quindi una opportunità all'incontro romano, in maniera tale che tutti quelli che hanno a cuore la scuola e l'educazione possono trovare una grande, ecco, esperienza di sfiducia e di speranza, per dare fiducia e speranza ai giovani. Appuntamento aperto ovviamente a tutti, e sono aperte le iscrizioni fino a metà marzo, giusto? Sì, metà marzo, poi qualcuno anche dopo, però l'importante è metà marzo, perché i tempi sono stretti e i posti sono pochi, purtroppo. E ancora Sappiamo che c'è la Dunata degli Alpini a Pordenone nello stesso fine settimana, quello del 10 maggio. Siccome gli alpini pensano di portare 500.000 persone a Pordenone, vediamo di parificare quantomeno. No, ma il problema è dei pullman, perché se poi non abbiamo i pullman, che cosa andiamo ma a piedi, la cosa diventa un po' più difficile. Beh, almeno i nostri che sono vicini a Pordenone ci andranno in macchina, quindi faranno, oppure partiranno. So che alcuni partono addirittura molto prima per preparare le tende. Comunque 10 maggio, segnatelo, è un sabato, ci sono diverse possibilità di partecipazione nella formula di un giorno, due giorni, anche con diversi costi. Ringraziamo Don Edmondo per questo intervento anche su temi delicati, che però insomma toccano anche tutto il mondo, compreso quello della scuola. Grazie, alla prossima. Grazie a voi tutti. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.